Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio Druga in redazione, Paolo Corleoni in regia, anche oggi non sono solo ma splendidamente accompagnato. Andrea Zorzi, ciao. Ciao, ben ritrovati. Grande sabato di sport, questo si è appena conclusa la Milano-Sanremo da cui partiremo nel nostro pomeriggio sportivo, più tardi invece, tra pochissimo, comunque parleremo di Galles-Italia, per fortuna sta finendo questo Sei Nazioni, 33-3-3 per il Galles contro l'Italia che addirittura pensava, voleva vincere questa partita di chiusura del suo Sei Nazioni. Non è così evidentemente, siamo al 73esimo. Però andiamo sulla Milano-Sanremo che si è conclusa da pochissimi istanti. Pier Augusto Stagi, chi ha vinto? Ciao Carlo, anche l'Italia avrebbe voluto vincere la Milano-Sanremo, invece purtroppo dopo averla corsa, devo dire, con grande diligenza, grande forza e grande lucidità, è uscito fuori Oscar Freire, che per la terza volta conquista la Milano-Sanremo, quindi tre volte campione del mondo, tre volte sul traguardo della Milano-Sanremo, che viene considerato da chi ama il ciclismo il mondiale di primavera, quindi Freire campione del mondo come pochi altri, tre Sanreme come Fausto Coppi, battuti in volata il campione del Belgio Tom Bonen e Alessandro Petacchi, quindi un podio di grandissimo livello, a conferma che questa non è solo una gara, per così dire, per velocisti, ma è una corsa che premia da sempre corridori sì veloci, ma che hanno spessore, che hanno tenuta, che hanno soprattutto storia. E tutti e tre questi corridori hanno una grande storia, appunto come Freire, Tom Bonen e Alessandro Petacchi. Quarto, un italiano alla sua prima Sanremo, che è Sasha Modolo, neoprofessionista di 22 anni, che in questo inizio di stagione non ha ancora raccolto nessuna vittoria, però ha ottenuto veramente tanti piazzamenti e questo quarto posto secondo me vale veramente quasi quanto una vittoria. Che dire poi della corsa? La corsa è stata animata da una lunga fuga di 202 chilometri con sempre tre italiani in fuga che hanno animato questa Milano-Sanremo. Poi devo dire un'ottima Katiusha, la squadra russa capitanata da Filippo Pozzato. Filippo Pozzato ci ha provato fino alla fine, a due chilometri dal traguardo c'è stata una bellissima stoccata in contropiede di Vincenzo Nibali, che ci aveva già provato in discesa, lungo la discesa del Poggio. Pozzato l'ha raggiunto e ha reagito in contropiede, ma è stato ripreso proprio praticamente sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, prima della volata dei migliori, perché poi in realtà sono arrivati al massimo 35 corridori alla volata, quindi non una volata di ranghi compatti, ma dei migliori. A non fare la volata, tra i velocisti mancava il vincitore dell'anno scorso, Mark Cavendish, che era dato non in perfette condizioni fisiche, e la Milano-Sanremo ha confermato che l'inglesino dell'isola di Man non era in condizione di poter anche difendere da par suo il titolo conquistato l'anno scorso. Anche perché insomma oggi brutto tempo sulla Sanremo, quindi condizionante anche dal punto di vista meteo. Intanto l'Italia segna una meta nel finale con Luke McLean, trasformazione di Bergamasco 33-10, un po' più dolce questa sconfitta, leggermente più dolce. Drazzorzi, per te Veneto, il ciclismo, insomma, roba dalle tue parti, eh? Io ho iniziato a giocare a pallavolo alla Silvelle, che è un paesino vicino dove sono nato io, e c'era una squadra di ciclocross famosissima. E qui mi ricordo durante l'inverno le facce infangate di questi atleti affaticatissimi. Da Veneto non potevo naturalmente che essere tifoso di ciclismo, ovviamente un po' dispiaciuto adesso perché negli ultimi anni il ciclismo è diventato anche qualcosa che non è semplicemente il fatto sportivo. Poi sono sempre molto affascinato perché negli ultimi anni vanno veramente come delle schegge. Qualche anno fa ricordo tornai in vacanza all'isola d'Elba, ritrovai le strade asfaltate perché passava il Giro d'Italia in quelle zone e siamo abituati a vedere le macchine, le biciclette andare bene, i ciclisti andavano ancora più veloci ed era semplicemente un trasferimento, quindi veramente una cosa fuori da ogni logica. Comunque la Sanremo è sempre un fascino suo, anche oggi facce infangate, appunto pioveva, ne abbiamo viste tante, compresa quella di Oscar Freire. Milano-Sanremo è un nome, un marchio importantissimo per noi italiani, ma mi pare di capire anche a livello europeo e mondiale. Milano-Sanremo è uno dei grandi... Allora, ho letto un libro di Leo Turrini che parla di coppie di Barter, nel quale si raccontava la storia all'inizio di questo trasferimento, che non era su strade asfaltate, ma era... Intanto partiamo, poi vediamo dove arriviamo, ma quello era il ciclismo d'altri tempi, di altri personaggi. Sì, infatti Pier Augusto, le l'evoluzione della specie ha trasformato la Sanremo in una gara che insomma si chiude come al solito con i principi della volata. Oggi c'erano tutti, non c'era solo Lance Armstrong, non c'era Alberto Contador, che sono quelli che vogliono vincere il tour, quindi non sono uomini da corsa in linea, però tutti gli altri erano lì come al solito. Sai, questa è l'edizione numero 101, è una corsa che ha fatto la storia, è la storia, è uno dei cinque monumenti del ciclismo, insieme al Giro del Fiume, alla Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi, al Giro di Lombardia. Quindi è come vincere per un tennista Wimbledon o Roland Garros, cioè non puoi essere considerato un grande ciclista senza riuscire a vincere un giorno almeno una di queste grandi corse. Quindi pensate la dimensione, il talento di Oscar Freire, questo corridore cantabro che per la terza volta scrive il suo nome in un albo d'oro di assoluto prestigio, dei più grandi corridori di tutti i tempi. Parlando del ciclismo e dell'evoluzione, volevo segnalare che questa mattina alle 9 è partita la Milano-Sanremo con il Team Sky, che era munita di biciclette italianissime, peraltro Pinarello, con cambio elettronico, quindi altro che strade sì. asfaltate, ormai c'è la telemetria e cambi elettronici anche nel ciclismo. Grazie Piero Augusto, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie dunque Piero Augusto Stagi. Io ho già diversi messaggi, aspettiamo anche gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde. Il cambio automatico nella bici io la voglio vedere. Lo vuoi vedere? Lo voglio vedere. Già in Italia siamo indietro, perché anche nelle macchine ancora qualcuno continua a avere come me il cambio, sì. quella leva che vuole cambiare. Poi non serve a molto, si sta in autostrada, non serve a nulla, però pensa in bicicletta, ci pensa lei a cambiare. Sì, pensa lei a cambiare, tu devi pensare solo a pedalare, come se fosse poco. No, però vedi che comunque alla fine ci sono dei monumenti dello sport come la Milano-Sanremo, e guarda caso in quei monumenti dello sport vincono i migliori, vincono praticamente sempre i campionissimi più forti. Vabbè, lì sai, arrivare veloci, si diceva qualche volta c'era un po' uno sfilacciamento del gruppo a qualche chilometro dalla fine, negli ultimi anni le qualità fisiche sono così migliorate che si arriva in fondo, tutti quanti riprendono le fughe quando vogliono, e poi quando fanno lo sprint è veramente incredibile, vanno come delle moto veloci. Dunque tra poco ci colleghiamo con il Galles dopo il traffico, ma siamo 33-10 ed è ultimo minuto di gioco per Italia e Galles. Come hai vissuto questa settimana, Andrea, sportivamente molto intensa? Ma abbastanza bene, nel senso che avevamo parlato settimana scorsa un po' anche di Mourinho, delle varie metodologie. Devo dire che la partita a Londra contro il Chelsea è stata una partita molto molto interessante, molto tesa. Grande partita dell'Inter, è meritatissimo il passo del turno. A me dispiace un po', perché ti avevo accennato per la mia simpatia per Carlo Ancelotti, però mi è sembrato che il Chelsea avesse gigioneggiato un po' tentando di rodere le strade, invece l'Inter ha fatto molto più. Mi è rimasta impressa una cosa, perché ho visto il giorno dopo alcune immagini della Barcellona invece, e vi chiedo quanto sia più grande il campo di Barcellona rispetto a quello, perché al Chelsea gli uomini sembravano grandi, sembrava ci fosse quasi un ingorgo di giocatori in questo campo verde. Al Barcellona No Camp invece erano dei nanerottili piccolini che andavano come delle schegge e la palla viaggiava velocissima. Presumo sia anche più grande proprio fisicamente il campo, sì, del Barcellona è leggermente più grande, però misura regolamentari, esatto. Però di là sembravano ma poi sono insomma, vedere giocare Barcellona in quella maniera è uno spettacolo. Però poi su Barcellona e sull'altra vorrei avere la tua opinione su un ragionamento che magari faremo anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde, no, perché Barcellona e Stoccarda sembravano squadre, come spesso capita in Europa, squadre di campionati diversi. Cioè vedi, io ho una mia idea sui grandi sport di squadra, basket, calcio soprattutto. Ormai si è formata un'oligarchia di club che puntano alla vittoria della Champions League, alla vittoria dell'Eurolega, e sono le uniche in momenti di crisi ad avere grandi disponibilità economiche. Morale, queste squadre nei loro campionati sono le classiche corazzate nello stagno. Mi domando quale senso possono continuare ad avere questo tipo di situazione. In Italia c'è l'Inter e c'è Siena nel basket, in Russia CSKA a Mosca e basta, in Israele Maccabi Tel Aviv che ha sempre vinto i campionati, in Inghilterra Chelsea, Manchester United, c'è anche l'Arsenal, c'è un po' il Liverpool, ma lì stanno meglio economicamente, quindi c'è una squadre di più squadre di alto livello. In Spagna Real Madrid e Barcellona nel calcio, Real Madrid e Barcellona nel basket. noi guardiamo l'Italia e diciamo, beh, l'Inter vince sempre, da 5 stagioni vince, Siena vince sempre, non perde una partita, però anche all'estero non è molto diversa la storia. Sportivamente parlando ha poco senso, perché così assume significato solo la Champions League, che però è un'operazione studiata con molta attenzione, con grande strategia, perché da 10 anni in questa parte si parla del campionato europeo, che è diventato importante economicamente innanzitutto, e quindi alcune squadre appartengono a quel tipo di situazione. Sì. E toglie ovviamente interesse ai campionati nazionali. Perché finora la cosa bella dello sport era che c'erano le varie serie, e nelle serie significava che più o meno c'era un livello di gioco che permetteva un minimo di imprevedibilità. La mia domanda è: a questo punto cosa facciamo? Una serie europea? E allora torniamo al discorso della Superlega, per molti anni osteggiato, però forse andando così le cose è l'unica soluzione praticabile. Non lo so, lo chiedo ad Andrea Zozzi, lo chiedo a voi. Come detto, finita Italia-Galles da pochi istanti, Giacomo Bagnasco da Cardiff. Buonasera Giacomo. Buonasera a tutti. Fortuna che è finita. 3-10 per il Galles, primo tempo 12-0 per la squadra di casa, una partita a senso unico che l'Italia ha interpretato difendendo tutto quello che era possibile, con una difesa anche un po' migliore di quella esibita contro la Francia. Sono arrivate 3 mete, contro i francesi ne erano arrivate 6, però il copione dell'incontro è stato abbastanza simile, nel senso che la Francia, così come il Galles, è una squadra che per le sue caratteristiche può far soffrire parecchio gli azzurri, hanno fatto girare il pallone dall'inizio alla fine, hanno cercato di creare continuamente buchi, penetrazioni, e gli azzurri hanno difeso bene, ma fatalmente hanno concesso punizioni nel primo tempo anche per la grande supremazia territoriale dei gallesi, e 3 mete nella ripresa, 2 mete di James Hook, mentre la terza meta è stata segnata da Shane Williams, tante altre occasioni per i gallesi, un'occasione vera per l'Italia che l'ha concretizzata sul finire dell'incontro con una bella meta di McLean, un bello slalom elegante su un'azione in diverse fasi della squadra di Nick Mallet. Un'Italia quindi che non si discosta molto dalla partita con la Francia, che però ha difeso con maggiore convinzione. Quella della difesa tutto sommato rimane la caratteristica positiva di questo 6 nazioni. Gli azzurri chiudono avendo subito 12 mete, non ne avevano mai subite così poche nelle 10 edizioni precedenti, in tutto però ne hanno segnate 5, che sono veramente pochine. Una squadra, la sensazione, vedi Giacomo, la sensazione, lo dicevo prima ad Andrea Zorzi, insomma, l'Italia mi sembra una squadra calcisticamente parlando di 15 Cannavaro, ma Cannavaro quello dei mondiali anche, non quello che si è fatto buttare fuori dopo 26 minuti l'altra sera, che mi sembra chiaramente un giocatore a capolinea, tanto che pensare ai mondiali mi vengono i brividi, vi dico la verità. Però al di là di questa digressione, mi sembra davvero una squadra di 15 difensori centrali che quando hanno la palla, in questo caso tra le mani, in quel caso i piedi, non sanno che cosa farne. È imbarazzante a tratti questa caratteristica dei nostri del rugby. Ma ricordo l'inizio di questa, scusa velocemente, ricordo l'inizio di questa 6 nazioni, si era parlato, si aspettava qualche segno di miglioramento, non tanto in difesa, che come dicevi il punto di forza di questa Italia, ma nella gestione, nella manualità, e evidentemente questo non è arrivato. Mi pare essere ovviamente la parte più talentuosa, però i segnali non sono particolarmente rassicuranti. Nonostante la vittoria, vado comunque considerata quella di settimana scorsa un passettino. Sì, Giacomo, tu mi dici sempre che insomma anche il modo di programmare l'azzurro in Italia, le nazionali in Italia, si basa molto su parametri fisici, no? Si fanno selezioni sulla base dell'altezza dei muscoli, dei chili, eccetera, eccetera, perché è più facile forse costruire i muscoli che non costruire i giocatori finiti. E probabilmente è più facile costruire una squadra che con il suo peso regge in difesa, ed è più difficile, ma direi fin dal mini rugby, ecco, giocare questo è incredibile, sulla costruzione del gioco. Certo che questo deve sicuramente avvenire, e qui è la sfida degli azzurri, ecco, la difesa ha retto meglio dell'anno scorso era stato un anno decisamente peggiore, bisogna dirlo, erano state perse tutte le partite, erano state segnate solo 2 mete e gli azzurri ne avevano subite 21, quindi sotto questo punto di vista un miglioramento c'è stato, però effettivamente vediamo dei giocatori che magari hanno dei fisici apparentemente meno esplosivi e che sono quelli che poi alla fine spesso ci fanno più male. Oggi comunque abbiamo visto una linea dei tre quarti gallese superba, sì. Hook, Shane Williams, Jamie Roberts, Lee Byrne, è rientrato Mike Phillips che è un mediano di mischia che noi soffriamo parecchio. Per quanto riguarda l'Italia c'è anche da ricordare questa specie di maledizione che si è abbattuta questa volta su Nick Mallet e sulle sue scelte. Avrebbe voluto far giocare Derbyshire e Del Pava, si sono fatti male in allenamento. Avrebbe voluto non far giocare Canale, inserire Robertson con Masi centro, e anche Masi si è fatto male all'ultimo allenamento, o perlomeno ha avuto un risentimento alla schiena. Sì. Voleva far giocare Cannavosio al posto di Tebaldi. Cannavosio si è infortunato già nel corso del primo tempo, poi si è infortunato anche Tebaldi e il giovane Bocchino, mediano d'apertura, è stato improvvisato mediano di mischia. L'Italia negli ultimi 20 minuti tutto sommato ha resistito, ricordiamo che ha preso la seconda meta in inferiorità numerica per un giallo a Mauro Bergamasco e al sedicesimo della ripresa il punteggio cominciava a diventare imbarazzante, gli azzurri hanno subito ancora una meta che era a quel punto sul punteggio di 33-3, si poteva pensare che si aprissero veramente, come si vuol dire, le cataratte. Per fortuna non è successo, però insomma è dall'inizio fin dall'inizio della partita con l'Italia che nei primi 5 minuti ha provato a fare qualcosa col pallone, non riuscendoci, poi ha cominciato a giocare il Galles, di lì è andata avanti così. È in questo contrasto evidente tra quelli che giocano a rugby, che hanno idee, schemi, mani, capacità tecnica, e la unica capacità degli azzurri, che è quella molto marcata, molto spiccata, difensiva, che insomma sta questa differenza lampante. Grazie Giacomo Bagnasco da Cardiff dunque. Grazie a voi. Grazie. Un ascoltatore primo di oggi, provincia di Milano. Mario, buonasera. Buonasera Carlo, è sempre un piacere. Mi avete quasi rubato l'intervento, nel senso che io volevo esprimere un po' quello che avete detto voi. L'Italia manca la tecnica e si basa tutto sul fisico, e questa qua ormai da molte edizioni di Senazione l'abbiamo appurato. E io però ci voglio mettere un bel carico da 11. Io questa presenza a 6 nazioni dell'Italia la trovo veramente avvilente, nel senso che secondo me sarebbe meglio che noi, la Scozia, la Romania, la Portogallo, Spagna, adesso non mi ricordo quali sono quelle del ranking in Europa in ordine, andassimo a fare un bel torneo per i fatti nostri. La Georgia, no, ma sarebbe la Georgia che è in grande crescita. No, ma in modo che io non ho visto che giocando con i migliori si migliora. Sì, che ci possa essere, che ci possano essere promozioni e retrocessioni, ecco. Poi capita anche che la Scozia comunque batte l'Inghilterra, noi non capita, cioè, mai, in pratica, mai successo. Chi vince il torneo B, chiamiamolo così, si merita, la possibilità di andare a sei nazioni, e chi arriva ultimo l'anno successivo si fa il torneo B. Sarebbe, ma su questo così, sì, io sono d'accordo. Imbarazzante anche queste ultime mete che abbiamo fatto nelle ultime due partite, proprio di contentino dell'altra squadra. Sul 33-3 la difesa gallese, che già non è fortissima di suo, lascia il buco e fai la meta che permette di rendere più dolce la sconfitta. Guarda, a giocare con i più forti è utile a certe condizioni, che non ci sia troppa distanza, se no neanche inizi a giocare non riesci proprio a giocare, e soprattutto che possa poi essere imparato ciò che tu hai visto fare dagli altri in contesti in cui tu puoi giocare. Ecco perché secondo me, si parlava anche prima, l'importante è che un campionato, un torneo sia fatto se possibile con un range di abilità che ti permettono di giocare per davvero alla pari e di imparare, di mettere in pratica. Quindi è utile ogni tanto vedere cosa significa rugby di altissimo livello. Se poi ci rimani fisso e ogni volta prendi delle scopole, ne perdi anche la fiducia. Ma su questo discorso di una spietata selezione fisica fin dalle giovanili, cioè se non sei alto 1,80 m, se non hai una certa quantità di muscolo, certa possibilità di sviluppo fisico, sei già tagliato fuori da squadre di alto livello. Pallavolo è uno sport dove se non sei alto è dura, no? Dunque c'è stato, però ovviamente, una selezione di questo tipo mi sembra nella pallavolo eccessiva. C'è stato il famigerato piano altezza sempre, che è quello che c'è adesso nel rugby, sempre con la capacità, io trovo però, di lasciare qualche spazio anche a qualcuno che attraverso canali diversi, in questo caso sono le piccole società che lavorano nel modo migliore possibile, per poter poi far rientrare qualcun altro che ha talenti diversi, che sono fatti. Considera questo, nella pallavolo c'è un ruolo che è considerato quello un po' più umile, importante ma umile, che è il centrale, che si occupa del muro. Quando uno, giovane, non è molto abile in ricezione, non è molto fluido nel palleggio o in attacco, tu fai il centrale. E va a finire che poi di quelli ce ne sono troppi, ma perché da piccolini non hai ancora gli schemi motori che ti permettono di fare quelle cose complicate e complesse. Se non hai la possibilità di provarci, se non c'è pazienza e un po' di lungimiranza da parte degli allenatori, va a finire che la squadra è di centrali, ma quei centrali non vinci, al massimo muri, ma poi hai bisogno di qualcuno che riesca a giocare la palla. Mi sembra un discorso molto applicabile al nostro rugby questo, Andrea. Assolutamente. Sacco di difensori grossi, alti, che sanno difendere, perché difendere è una questione di volontà, di voglia, non serve grande abilità tecnica. Senza togliere nulla al sacrificio e all'abilità di difendere. Sì. Il problema è che adesso abbiamo scoperto tutti che l'Italia in difesa è una buonissima squadra. Ok, ci aspettiamo da tifosi che il prossimo anno, la prossima occasione, ci facciano vedere anche qualche passaggio in più terminato e qualche azione, a costo di subire altre mete. Ma almeno, dici, ne abbiamo prese perché abbiamo sbagliato, ma abbiamo provato a fare qualcosa in un fondamentale che non ci viene. Nick Mallett con Sky. Io sono molto, molto orgoglioso di loro sul campo oggi, perché abbiamo, tra le partite c'è ancora due giocatori infortunati. Le primo 10-20 minuti c'è Gonzo Canale, dopo due minuti e Pablo Cannavosio fuori, con tre giocatori infortunati giovedì sera. E sul campo c'è Zani, c'è Marco Bortolami, c'è tanti giocatori avevano il problema muscoloso, e la velocità di gioco dei gallesi era allo stesso livello che in attacco che dei francesi. E Philips, un gran giocatore, loro prima linea, è stato forte. E a un certo momento ancora la squadra può prendere, prendere ancora di più. Tre metri oggi, con tutte le palle, tutte le occasioni di meta che loro hanno, non è tanto, tanti pagato, e sono contento con l'ultimo meta di Luke McLean, perché questa squadra ha lo spirito, anche se abbiamo nostre difficoltà contro le squadre che giocano così, ma la squadra manca mai il cuore e la voglia. Tanto orgoglio. Questo Nick Mallett, dunque, orgoglioso, contento di questa. Tra l'altro, poi mi pare che nessuno abbia mai accusato l'Italia del rugby di non essere volonterosa, non impegnarsi, di non provarci. Quindi, assolutamente, su queste cose è la base di partenza. Quanto a giocare è un'altra cosa. Ci chiediamo, fateci vedere quale tipo di strada vorreste percorrere per provare a fare meglio di quanto si riesce a fare adesso. Ci fermiamo un attimo, poi Ludovico da Roma che è già in linea, 800 24 00 24 per gli ascoltatori, ma c'è anche il numero per i messaggi, come sapete, 349 238 6666. Sarebbe sufficiente far partecipare alla Champions solo le vincenti dei tornei nazionali, scrive un ascoltatore, quanto al discorso che facevamo prima. Secondo me non bisogna tornare indietro, non si può tornare al passato, alla Coppa dei Campioni, eliminazione diretta fin da primo turno. Insomma, ormai mi pare che il mondo sia evoluto, anche quello sportivo, ma ci sono tornei di stampo diverso. Si tratta di capire chi è legittimo partecipa a questi tornei e se non sia il caso di pensare appunto ad uno stagno un po' più grande per queste corazzate, uno stagno di livello diverso rispetto a quello dei tornei nazionali. Non lo so. Ludovico da Roma, buonasera, grazie dell'attesa. Buonasera, grazie. Comunque volevo dire che l'Irlanda, prima di vincere negli ultimi anni, per 20 anni ha fatto la figura dell'Italia, anzi a noi ci hanno fatto venire nelle Sei Nazioni proprio perché per anni e anni e anni il torneo era solo Francia e Inghilterra. La verità è che c'è pochissima cultura rugbistica e moltissimi hanno una cultura calcistica, compresi i giornalisti. Sì. Il rugby è molto più simile alla box che non appunto al calcio, alla palletta, insomma. Sì, detto questo, è legittimo continuare a perdere tanto a poco? Guarda, io mi sono innamorato di questo sport guardando il Cinque Nazioni in bianco e nero con le telecronache di Paolo Rosio, penso che come me tutti quelli che hanno giocato, chi ha giocato a rugby sa una differenza tra perdere bene e perdere male. L'Italia nei primissimi edizioni del torneo non placcava a distanza di 10 anni. Il problema è che chiaramente per tantissimi anni, come posso spiegare meglio, la differenza enorme tra i nostri 15 titolari e le altre nazioni che hanno 30 titolari. Ma adesso che ad esempio siamo stati ammessi alla Celtic League, sicuramente i nostri giocatori più forti avranno migliori opportunità possibilità per giocare in campionato di livello. Sì. E il discorso, no, ma tutto questo è chiaro. Ma non ha proprio dubbi, cioè gli irlandesi per 20 anni, cioè se vi andate a vedere l'elenco delle partite che hanno fatto dal 70 al 90, ma perdevano ma di 100-0 per 20 anni il torneo. Io mi domando se oggi, visto che non siamo più negli anni 70, nemmeno negli anni 80, sia legittimo. Nel 1990, va, 1998, sia legittimo mantenere in un torneo una squadra che è evidentemente più debole delle altre. Anch'io guardavo quelle Sei Nazioni con i commenti di Rosi, anch'io mi sono innamorato di quelle immagini, di quel rugby, eccetera. Però, come dicevo prima, tornare indietro non si può. Mi domando se oggi nel 2010 sia legittimo in un torneo di questo livello avere comunque una squadra che non è competitiva per questo livello, o sarebbe poi il caso di... Beh, tanto la Scozia ha battuto l'Inghilterra la settimana scorsa, poi comunque in queste nazioni... No, la Scozia visto ha pareggiato, che ha pareggiato con l'Inghilterra, visto che in queste nazioni, visto che c'è una grande cultura rugbistica, c'è anche un grande ricambio, ci sono nazioni come il Galles che magari vivono 2 o 3 stagioni difficili e poi riescono a produrre, oggi giocava un 18enne nel Galles, squadre in grado di fare grande slam. In Italia sappiamo bene che questo non è possibile. Tra l'altro poi la domanda non è se sia il caso di far giocare o meno, ma qual è la strada migliore per migliorare l'Italia. Sì. E su questo è legittima anche la domanda se restare nelle Sei Nazioni sia il modo migliore. Se poi si ritiene che lo sia per davvero, ma ben venga, ci mancherebbe altro, però questa è la ragione per cui qualche anno fa l'Italia entrò a far parte di questo torneo. Ora, i miglioramenti si vedono in alcuni settori, si placca meglio di qualche anno fa, ma la domanda, secondo me, deve essere posta: è il modo migliore per migliorare, per continuare a crescere, o ce ne sono altre? Poi un'altra domanda è: ma il lavoro che viene fatto è quello giusto? Perché non ne sono poi così sicuro e così convinto. Cioè, viene organizzata al meglio l'attività? Questa in ogni sport è la domanda più difficile, perché il lavoro non dà risultati immediati, occorre avere coraggio, occorre avere costanza, occorre avere anche molta pazienza, ma è fondamentale che ci sia il coraggio di chiedersi se è la strada giusta, capire se è la strada giusta per quale ragione e poi muoversi di conseguenza. Ecco perché la domanda, secondo me, va posta. Dopodiché, se si decide che è il modo migliore, ma ben venga le Sei Nazioni con l'Italia che fa dei passettini in avanti o fa dei passi indietro, questo dipende da quello che succede. Marco Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Salve, buonasera. Volevo intervenire sul discorso della Champions League del calcio. C'è un discorso, però: tutte le squadre che sono state menzionate per poter competere a quel livello, essere delle corazzate dentro gli stagni, sono fortemente indebitate. Si è creata una situazione di calcio un po' sballato. Per avere dei campionati effettivamente equilibrati servirebbero, non so, una sorta di salary cap, dei tetti salariali, perché altrimenti avremo sempre questa forte disuguaglianza. In fondo le squadre in Italia che vincono campionati sono sempre le solite 3, tranne piccole eccezioni. Però questo è un discorso generalizzabile, non è solo in Italia, è nei maggiori campionati europei dei maggiori sport di squadra. Poi, al di là dell'indebitamento, questo non è un altro tipo di ragionamento, che poi, oggi sono indebitate anche le altre. Io parlo proprio di idea. Questi grandi club partono con l'idea di vincere quello che conta di più, e cioè il torneo europeo. Però le due cose non sono completamente staccate. Cioè, in settimana mi pare che la Federazione Europea abbia ritardato l'inizio di questo fair play finanziario, in cui si invita a recuperare gli eventuali debiti facendo certe spese, investendo nei giovani e non nei contratti dei grandi giocatori e via dicendo. Non appoggiandosi troppo, mi pare che dicano, in grandi mecenati che possono investire e fare ciò che vogliono. Evitare questi squilibri. Questa è solo una parte del problema. L'altro è quello che adesso la Champions League è quasi in contrapposizione al campionato. Invece di essere l'esaltazione di chi ha lottato in un campionato e poi alla fine c'ha questa vetrina straordinaria, sono proprio campionati che fanno a botte anche per avere gli spazi. Hanno spalmato le partite l'intera settimana, è difficile organizzare, e chi è che ci rimette? Al venerdì gioca l'Inter perché deve giocare al martedì in Champions League. Quindi c'è proprio una specie di lotta interna tra il campionato europeo e i campionati nazionali. Ovviamente quello europeo ha maggior visibilità, maggiori investimenti e maggiori... Ma tu come la vedi, Andrea? Ma a me dispiace che ci sia questa contrapposizione, anche perché l'Europa è un paese particolare, è un paese di 400-500 milioni di abitanti che però ha tantissime realtà diverse, e non possiamo in qualche modo nascondere il fatto che il campionato italiano è fatto di tante squadre non possiamo cancellare l'esistenza di queste perché qualcuna sta mirando a vincere il campionato europeo. Quindi mi piacerebbe trovare un equilibrio. Secondo me, guarda, che il salary cap, anche semplicemente il fair play finanziario, ridurrebbe queste differenze e riporterebbe all'interno di un giusto range questa collaborazione tra campionato nazionale e Champions League. Secondo te è possibile tornare indietro, cioè dire la Coppa dei Campioni solo chi vince, cioè campionati old fashion, old style come era una volta? Secondo me non è no. possibile. No. Anche no, nella però... pallavolo, no? Insomma, c'è una Eurolega anche nella pallavolo, cioè insomma, non è più possibile tornare a formule antiche di quel tipo. Questo mi pare effettivamente un percorso non praticabile. Non si può tornare indietro, non si può tornare al bianco e nero, si va avanti, il mondo è globalizzato, c'è bisogno di maggiori mercati e quant'altro. Però per rendere un po' più equilibrata questo rischio di avere chi gioca per l'Europa e chi gioca per l'Italia, forse qualche regola potrebbe aiutare. Torniamo al salary cap, potrebbe non essere applicabile in Italia. Torniamo al sistema delle chiamate a inizio campionato in base alla classifica, cose che fanno l'NBA. Ovviamente è complicatissimo applicare qualcosa che nell'NBA funziona da molti anni in un campionato dove non siamo abituati. Però qualche piccola correzione ci potrebbe essere per evitare queste distanze enormi che sono poco piacevoli per quanto riguarda lo sport. Certo, non c'è dubbio, anche perché appunto sviliscono i campionati nazionali. Nel nostro campionato di basket, d'accordo, il livello basso, quello che vuoi, però partire sapendo chi vince, ma questo non accade solo in Italia, è questo che voglio dire. Infatti a Siena bisogna fargli i complimenti, perché sono bravi, sanno scegliere bene i giocatori, hanno anche un bell'ambiente, sono solidi economicamente, gli devi dire bravissimi, troppo bravi, troppo bravi. Il problema è quello. Giovanni Capuano, buonasera. Buonasera Carlo. Cominciamo a guardare la Serie A, adesso abbiamo ancora un minutino, giusto il tempo per darci due dritte sul primo anticipo di oggi. Oggi giornata di grandi anticipi, cominciano Genova e Fiorentina. Allora, in un minuto Fiorentina-Genova, non ci sono novità nel Genova, che gioca con il tridente Palladino, Sculli e Palacio. A metà campo Mesto è stato preferito a Juric come laterale di destro. La novità della Fiorentina invece nello schieramento, un po' più coperto, un 4-4-2, giocano Jovetic e Gilardino davanti, Santana arretra sulla linea dei quattro di centrocampo come laterale, mentre in difesa, al posto di De Silvestri, che va in panchina, gioca Comotto, recuperato Natali, che gioca dal primo minuto, però Prandelli, che assapora una vittoria che potrebbe riportarlo in corsa addirittura per un posto Champions, preferisce coprirsi davanti a uno degli attacchi migliori, anche se soprattutto in casa, di questo campionato. Traffico, poi c'è anche Francesco da Verona che vuole intervenire. 800 24 00 24, naturalmente con Giovanni Capuano vi daremo le anticipazioni su questo weekend che sarà cruciale per il campionato. Cominciare da questa sera, c'è l'Inter come sapete a Palermo, c'è la Roma con l'Udinese e domani pomeriggio il Milan contro il Napoli, magari con la possibilità di sorpasso, chi lo sa. Inter e Roma in campo questa sera, come, Giovanni Capuano? Allora, se vuoi partiamo dalla Roma, Roma che ha grossissime difficoltà di formazione perché ci sono quattro squalificati, di fatto Ranieri deve rinunciare un po' a tutto il centrocampo perché mancano De Rossi, Pizarro e Taddei, poi manca anche Mexès, continua a mancare anche Totti che dovrebbe però rientrare nella gara di metà settimana per poi essere pronto per presentarsi a Roma-Inter in condizioni che siano almeno accettabili. La novità che trapela in questi minuti per la gara con l'Udinese di questa sera è la conferma di un 4-3-3 con in campo a centrocampo Fatì, con Menez dietro le due punte, Toni e Vucinic, e con quindi il terzetto di centrocampo Fatì, Brighi, Perrotta. In questo caso il sacrificato sarebbe Motta, che va in panchina, mentre Cassetti dovrebbe arretrare sulla linea dei quattro difensori. I due centrali sono Burdisso e Juan, perché Mexès è squalificato. Per l'Udinese non ci sono novità, gioca il tridente Floro Flores, Di Natale e Pepe. Udinese che è un ostacolo tutt'altro che semplice però per la Roma, anche perché è una squadra che sta attraversando un buon momento di condizione e sta anche risalendo le posizioni in classifica. Su Palermo-Inter è più difficile fare previsioni. C'è una notizia che riguarda il Palermo ed è il forfè di Liverani, che si è bloccato nel corso della rifinitura di questa mattina, quindi non giocherà. Al suo posto gioca quasi certamente Simplicio, con Pastore dietro le due punte, che sono Cavani e Miccoli. In realtà Hernandez conserva fino all'ultimo una possibilità di giocare al posto di Cavani, ma diciamo che quasi certamente Rossi dovrebbe riproporre la coppia tra Cavani e Miccoli. Il silenzio stampa ormai lunghissimo dell'Inter e la rifinitura di ieri blindata agli occhi dei curiosi ha mischiato molto le carte in casa Inter. Secondo quello che dice la rifinitura, dovrebbe giocare Cordoba e riposare Lucio, anche se si tratta di una scelta estrema questa da parte di Mourinho. Certamente riposerà qualcuno dei giocatori che sono stati impegnati a Londra. Il più probabile è Thiago Motta. In questo caso potrebbe esserci una staffetta con Stankovic, che torna dal primo minuto, e con Zanetti che torna sulla linea difensiva, dando spazio a Mariga a centrocampo. C'è Muntari squalificato, davanti anche Pandev dovrebbe riposare con una formazione leggermente meno sbilanciata rispetto a quella iniziale di Londra. Però Balotelli non c'è. Andrea, l'Inter questo si trova alle prese con un momento delicato, quello della gestione di un'impresa. Poi ieri esce il CSK Mosca dall'urna, ovviamente l'avversario più morbido che potesse essere. Non vorrei però che questo insieme di cose e i poster celebrativi e i leoni di Londra eccetera creasse qualche problema. Non è facile la gestione dell'impresa. Non è facile. Non ho ancora fatto niente se l'Inter vuole vincere la Champions League, la strada è lunghissima. Niente, direi di no. Hanno superato un bello ostacolo. Però superati gli ottavi. Lo sport insegna che quello che è accaduto ieri va dimenticato in fretta. Io credo che loro abbiano le armi, la capacità, l'esperienza, tutti insieme, per capire che non possono pensare che il Cesca sia già un ostacolo superato. Neanche da pensarci. È però più semplice rispetto alle altre squadre. Io ho visto un Inter molto decisa a livello europeo, e quindi questo mi fa ben sperare per il resto del percorso. È vero che in alcune occasioni il rischio di deconcentrarsi, esistono squadre più deboli, questo lo vedremo. È capitato anche a te di superare un ostacolo molto difficile in una fase molto anticipata del torneo? Io credo quello sia un momento anche delicato da gestire, per l'appunto. Va gestito, anche quello va gestito, nel senso che c'è il rischio di dedicarci troppe energie, di sottovalutare l'avversario, va gestito come tanti altri aspetti. Il rischio in questo caso è che occorre mantenere l'alta l'attenzione, e il Cesca di per sé non è un nome sufficiente a far drizzare le antenne a tutti gli interisti. Io voglio farvi sentire, prima di altre anticipazioni, che cosa ha detto oggi Zaccheroni. Qui sono altri discorsi da fare. Zaccheroni sulla sua disastrata Juventus. L'eliminazione c'è, è un dato di fatto, e quindi su quella non ci voglio neanche più ritornare. Adesso dobbiamo guardare avanti. Adesso continua questo, la settimana l'eliminazione della Coppa non è che ci ha portato a prepararci con la settimana tipo alla partita, perché adesso abbiamo ravvicinati due partite, due tappe importanti che noi dobbiamo cercare di affrontare al meglio, come abbiamo sempre cercato di fare, che, come ho detto prima, a volte ci siamo riusciti, a volte meno, però l'impegno vi assicuro io è sempre totale. Qui sono altri problemi, Andrea. Sì, si sente un po' anche della fatica con cui Zaccheroni parla. Sì. Si sente che sta dicendo ciò che deve dire, ciò che ritiene corretto dire, per evitare ancora contrapposizioni. Potrebbe essere addirittura pericoloso, perché se una sua reazione diretta lo preoccupa perché la squadra non agisce positivamente, vuol dire che non è neanche il terreno sul quale potersi arrabbiare, per esempio. Potrebbe essere un altro segnale di debolezza da parte della Juve. Sta di fatto che le parole non uscivano, perché non c'è nulla da dire in questo caso. Dici, pensiamo a domani, però in realtà ci credi fino a un certo punto. Certo, una squadra che sono due segnali preoccupanti. Nella settimana la Juventus vince 3-0 con il Siena, plaf, si rilassa e fa 3-3. Va in Inghilterra, va a Londra con questo 3-1, tutto sommato da gestire, segna. Poi subisce il pareggio, Cannavaro espulso, una squadra che ha nervi, sembra avere i nervi fragilissimi. Non sembra, evidentemente l'alternanza è inspiegabile, proprio inspiegabile. È vero che quando hai questi dubbi di sicurezza, di fiducia, a volte nulla ti risolve, quindi la vittoria la percepisci, sì, però vediamo, la sconfitta è come se fossi dietro all'angolo e quindi sei negativamente influenzato. Però è sorprendente, perché sembrava che Fulham fosse comunque una squadra superabile, per come si era messa poi all'inizio. Insomma, era praticamente fatta. Giovanni, domani chi fa giocare Zaccheroni? Ci sono dei bocciati nella Juventus di domani? Guarda, in un'altra parte della conferenza stampa Zaccheroni, parlando di Felipe Melo e Zebina, i due giocatori che più hanno avuto problemi a Londra, soprattutto con i tifosi, Zebina poi si è lasciato andare anche con un gestaccio, Felipe Melo lo aveva fatto domenica scorsa durante sì. Juventus Siena, ha detto Zaccheroni, entrambi devono imparare a convivere con i fischi e con gli insulti, e domani dovranno probabilmente convivere anche con la panchina e la tribuna, perché Felipe Melo dovrebbe andare in panchina e Zebina addirittura dovrebbe finire in tribuna. Comunque per nessuno dei due è atteso un impiego dal primo minuto, così come per Cannavaro, che è il terzo giocatore sul banco degli imputati. Domani se Chiellini recupera, Chiellini è uno dei tre dubbi di Zaccheroni, ma se Chiellini recupera gioca a centrale con le grottaglie e Cannavaro scala in panchina, e questa è una cattivissima notizia anche per Lippi, che di fatto insieme ad altri problemi con l'infortunio di Iniesta di per sé con la stagione negativa della Juventus ha visto disintegrarsi le certezze in vista del mondiale. Anche con Zaccheroni un dato, 17 partite giocate e 18 gol subiti. Dicevo, ci sono tre dubbi legati a condizioni fisiche non eccellenti, sono Marchisio, Chiellini e Iaquinta. La lista dei convocati di Zaccheroni ancora non c'è, i tre sono stati valutati oggi nel corso dell'allenamento. Diamo in campo Marchisio per recuperato e Chiellini, mentre Iaquinta dovrebbe partire dalla panchina. Davanti giocheranno Del Piero e Trezeguet. Oggi Zaccheroni ha provato anche a smorzare il caso del malcontento di Del Piero per la panchina di Londra. C'è una voce che dice che potrebbe partire ancora Candreva, trequartista, dal primo minuto con Diego in panchina. Io sinceramente non ci credo, nemmeno però io. La voce c'è e ve la riporto. Sfida aperta a Del Piero e dunque ai tifosi, ambiente esplosivo se ce n'è uno alla Juventus, in cui ci sono troppe componenti eccessivamente pesanti a mio parere. Per chiudere invece, torna Pato nel Milan. Sì, torna Pato nel Milan, che però perde altri due giocatori. Uno è Ambrosini, che non è stato nemmeno convocato e quindi domani non ci sarà contro il Napoli, ed è un'assenza pesantissima. Al suo posto dovrebbe giocare Gattuso, che in questo momento non è un giocatore comunque che garantisca la stessa carica, la stessa disciplina tattica del capitano rossonero. E l'altra cattiva notizia è che non ci sarà Borriello, o meglio, Borriello è stato convocato ma anche oggi non si è allenato, tutta la settimana ha avuto l'influenza. Ha detto oggi Leonardo: noi abbiamo tanti giocatori, abbiamo tante alternative, giocatori che stanno bene, sono motivati, Inzaghi, Huntelaar, dunque domani potrebbe essere il ritorno di Inzaghi dal primo minuto in squadra, un girone dopo Napoli-Milan, quando Inzaghi dopo due minuti aveva realizzato il gol dell'1-0 per il Milan nella partita poi terminata 2-2. Diciamo che però Leonardo farà di tutto fino all'ultimo per provare a recuperare Borriello, perché c'è poco da fare, di quel modulo si fida e quindi vorrebbe riproporlo. In difesa, siccome Leonardo oggi ha fatto capire che non ama rischiare troppi giocatori acciaccati o appena rientrati da infortuni, c'è Oddo sulla fascia sinistra, favorito su Antonini, perché già deve rischiare Pato, ma in quel caso non ci sono alternative, ha detto Leonardo, e quindi siccome in difesa invece qualche alternativa c'è, almeno sulle fasce, è pensabile che possa giocare Oddo al posto di Antonini. Il Napoli certamente ritrova dal primo minuto Quagliarella con Dennis che va in panchina, e questo da vedere se sia un bene. E questo bisogna vedere se sia un bene, perché su questo punto io non sono mica così convinto. Grazie Giovanni Capuano. Quindi giocano nel Milan quelli che stanno bene, impressionante, saltano, non la distorsione alla caviglia, gli saltano i tendini. Andrea, Leonardo ha detto che comunque era tranquillo perché Inzaghi in primavera va molto meglio. E c'era infatti la statistica di quanti gol ha fatto negli ultimi tre stagioni, proprio in questo periodo. Fa un po' più caldo, quindi gli acciacchi. Fa anche lui quello che può, Leonardo. Fa quello che può, no, ma è sorprendente. Il Milan perde i pezzi, ma letteralmente. Cioè saltano i tendini, che può essere casualità, però c'entrerà qualcosa, carta identità, c'entrerà qualcosa lo stress di una squadra che insomma mi sembra abbastanza ridotta all'osso. Gli infortuni iniziano a pesare in tante squadre adesso. In alcune, moltissimo. Sì, non c'è dubbio. Francesco Verona, buonasera. Sì, buonasera, salve. Volevo parlare da rugby. Prego, un attimo, se era possibile. Prego. Volevo solo dire che io non sono stato mai un grande appassionato di rugby, ma quando l'Italia era Sei Nazioni mi sono appassionato come tanti altri italiani, no? Sì. Questa trasmissione mi sembra che invece sia lei che anche il suo co-conduttore spinga un po' per un'Italia in una serie B, questo potrebbe anche essere giusto dal punto di vista sportivo. È vero che ci prendiamo delle belle scopole, però come ha detto l'ex rugbista giustamente, l'Irlanda ne ha prese altrettante e adesso è diventata una squadra diciamo abbastanza competitiva direi rispetto all'Italia. bisogna avere pazienza, e l'unico modo per sperare di avere giovani che facciano rugby e poi in futuro chissà di grandi rugbyisti è quello di avere questo taglio delle sei nazioni, perché se no non abbiamo speranze. Voi cercate altre strade, ma la vedo abbastanza dura come altre strade. Finché il mio co-conduttore Andrea Zazzi qualcosina ne sa, però visti i passati, però finché ci tengono lì, però insomma mi domando, è giusto che ci tengano lì fino ad oltranza? Perché ripeto, lo sport va avanti. Sei Nazioni comunque è un torneo globale, come dicevi tu prima Andrea, ha un senso restare lì? Ma provi a vederla così il radioascoltatore, nel senso che non basta essere nelle Sei Nazioni per crescere, se poi questa cosa è utile ci mancherebbe altro. Stiamo dicendo però che, avendo visto pochi miglioramenti negli ultimi anni o comunque non in la direzione che ci aspettavamo, l'idea era facciamoci una domanda globale, dopodiché se Sei Nazioni è per la promozione importantissimo, ma ci mancherebbe altro, il rugby rimane nelle Sei Nazioni, non limitiamoci a pensare che basta essere nelle Sei Nazioni per diventare una grande squadra e crescere molto. No, aspettiamo 40 anni, poi magari diventeremo competitivi. Cosa si può fare, certo. Allo stare dentro le Sei Nazioni, se necessario. Certo. Claudio da Milano non riusciamo a parlarci purtroppo perché il tempo è scaduto e mi chiudono il microfono, però domani dalle 5 alle 7 siamo qui e se lei, Claudio, vuole a tempo sarà il primo ad intervenire, naturalmente alle 17. Tra 24 ore. Grazie Andrea, ci vediamo un altro sabato. Vi saluto dicendo che Yamamà e Busto Arsizio a Baku ha vinto la partita contro i padroni di casa, quindi domani giocherà la finale di Coppa Cev, che è la seconda Coppa Europea a livello femminile. Splendida notizia, con cui vi lasciamo. Grazie Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Domani.